Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Tempo di iscrizione a scuola e sono dolori. La scelta a qualsiasi età è una bella rogna. In questo periodo è tutto un discutere nelle famiglie all'ora di cena, con non pochi mal di pancia di mamma e papà. Meglio il classico, lo scientifico, ora anche con le novità portate dalla riforma delle superiori. Quale media scegliere? Quella sotto casa, ma con il rischio di finire nella sezione un po' così così, o quella più lontana, con tutti i disagi del caso? E poi ci sono gli amici da seguire a tutti i costi. E per i più piccoli, meglio il tempo pieno o il tempo normale? Ed è proprio da qui che vogliamo partire. Laddove c'è il tempo pieno è meglio di quello normale per i bambini della primaria? Marco Vinicio Masoni si occupa di formazione. Allora, io penso che non c'è la categoria bambino, ma i bambini, tutti diversi, per cui per qualcuno può essere utile il tempo prolungato, per qualcun altro no, dipende da che insegnanti hanno, da cosa fanno, da che famiglia hanno, caso per caso. So che è complicato, ma la realtà vera è questa, poi possiamo semplificare accorpando in categorie generiche. Ecco, ma se io sono una mamma che sta per iscrivere suo figlio a scuola, conosco bene mio figlio, eccetera, ma quali sono le caratteristiche secondo lei che devo individuare per capire se è meglio inserirlo in una o l'altra categoria? Se vedo che mio figlio ha un buon rapporto con la scuola, con gli insegnanti che già conosce, con i compagni, che va volentieri, ho già molti punti in mano per decidere. Però questo se non lo possiamo sapere, sì, perché ovviamente io ho un bambino di 5 certo, anni che certo, va all'asilo, certo, non so che maestra certo incontrerà, non so che compagni incontrerà. Incomincio a informarmi, le scuole hanno un passaparola, malgrado la regola delle stazioni assolte delle classi, c'è un passaparola comunque, io mi informerei se fossi il papà di quel bambino, cercherei di capire che scuola è, che insegnanti ha, andrei molto cauto perché la scuola è in forte crisi e quindi me la sceglierei col contagocce. Ecco, non può essere pesante comunque per un bambino stare a scuola sostanzialmente 8 ore, no? Fino alle 4, 4 e mezza. È pesante, dipende da, se c'è un insegnante o degli insegnanti che rendono la cosa interessante e piacevole, il bambino non si accorge del tempo che passa, si diverte e apprende. Se invece c'è l'insegnante che tira via e fa passare le ore con l'orologio in mano, questa cosa la sente anche il bambino. Quindi insomma, capire bene com'è il proprio bambino, quali sono le caratteristiche, sì, magari sì, chiedere anche qualche consiglio all'insegnante attuale. Ma certo, insomma, io so che è una risposta che non aiuta probabilmente, però è vero che ci stiamo abituando a pensare a grandi categorie, l'adolescente, il bambino, non ci sono queste categorie, ci sono milioni di adolescenti tutti diversi fra loro, bambini diversi fra loro, e con esigenze diverse, con problemi diversi, con insegnanti diversi, e occorrerebbe cominciare a pensare in questo modo, cosa che la scuola non sta facendo. Un'altra cosa che si dice molto spesso, i bambini che fanno il tempo pieno non imparano a studiare da soli, poi alle medie sono dolori, secondo lei è realistica questa preoccupazione? Alle medie sono dolori sempre, per tutti, perché sono cambiati i bambini, non sono più obbedienti a regole come in passato, insegnare è più difficile che in passato e non proverei a spiegare queste difficoltà dicendo che hanno fatto o noi il lavoro da soli o in compagnia. Il problema è una relazione diversa con i bambini e con i ragazzi che produrrà frutti diversi. Oggi insegnare è difficile, occorre essere pronti per farlo, tanti non lo sono. Togliani, Procopio, sì. Cantone, Perconti. Presente. Non stupitevi se all'appello che avete sentito hanno risposto voci adulte. Si tratta infatti di alcuni genitori che a Roma, l'avrete visto su qualche TG, per assicurarsi un posto al tempo pieno nella scuola elementare di via Zandonai, hanno addirittura dormito all'addiaccio. Fra questi il signor Paolo Scinto. Abbiamo dovuto, come dire, passare la notte fuori perché le richieste, la sensazione che c'era in giro, sa, questi tam tam tra genitori, è che le richieste erano superiori all'offerta di posti e quindi, non essendoci nessun sistema che potesse aiutare i genitori e chi si occupa, chi è delegato alle questioni della scuola per riuscire ad arrivare a un numero, come dire, congruo di posti, di classi, eccetera, l'unica soluzione era, come dire, a chi arriva prima si iscrive, chi arriva dopo è fuori. Di rimanere fuori, esatto. Allora, a che ora è arrivato lei di fronte alla scuola? Guardi, noi ci siamo organizzati con degli amici, insomma, degli amici genitori di, appunto, compagnucci classi di asilo delle nostre figlie, per cui come dire, c'è stata questa doppia coppia. La fila fuori, a quanto so, è iniziata alle 9 di mattina del giorno prima, l'iscrizione della domenica, l'iscrizione la segreteria apriva alle 9 di mattina del lunedì, quindi diciamo 24 ore prima la prima persona era in fila. E noi siamo arrivati verso mezzogiorno e eravamo le trentesimi, più o meno 35esimi. E poi mano a mano si sono aggiunte altre persone. Siamo riusciti ad organizzarci molto bene grazie a, come dire, un po' all'educazione, al senso civico di tutti e soprattutto all'organizzazione delle prime persone che lì si sono messe, hanno fatto una sorta di regolamento, tutto, diciamo, un'organizzazione dal basso che ha funzionato benissimo. E per cui non ci sono state né polemiche né litigi e cose di questo tipo. Abbiamo organizzato un appello ogni ora, di lì fino a, mi sembra, a mezzanotte, e poi da mezzanotte ogni due ore, però con presenza, diciamo, fisica assicurata. Bisognava essere proprio lì, insomma, non fingere di esserci. Dalla notte sì, perché insomma diciamo che c'era un gruppetto che a turno rimaneva un po' a presidiare, perché giustamente essendo una cosa auto-organizzata non aveva nessuna valenza di carattere, come dire, di diritto giuridico, e quindi chiunque poteva venire a qualsiasi ora, mettersi, legarsi al cancello e dire di essere il primo, nonostante magari fosse venuto solo all'ultimo momento. Quindi diciamo che i bigliettini, le firme, la lista avevano un senso se qualcuno comunque rimaneva lì a presidiare, ovviamente, e quindi ci siamo organizzati in questo modo. Io poi personalmente l'ultimo turno dalle 3:30 di notte fino alle 9 di mattina che hanno aperto la segreteria, l'ho passato appunto nella macchina parcheggiata lì davanti. Al freschino, visto che in questi giorni. A 0 gradi, quindi simpaticamente al fresco, e così come tante altre persone. In compagnia di altri genitori. Sì, senta, ci tolga la curiosità, sì, ogni tanto immagino bene un caffè, un grappino per tenersi esatto. Ci tolga la curiosità, alla fine ce l'hanno fatta le sue figlie ad entrare in questa classe a tempo pieno, ambitissima. Guardi, io non... sì, erano due le classi, dovrebbero essere entrate entrambe, salvo sorpresa, non mi vede, sto incrociando le dita perché... io finché non vedo sa queste situazioni un po' così. Comunque la fila poi è stata rispettata fino alla fine, anche quando hanno aperto dentro gli spazi interni, tutti si sono rimessi ordinatamente in fila, quindi essendo due classi, noi come 35, 34esimo e 35esimo siamo entrati. Ora ecco, sono state fatte passare, unica eccezione la mattina, due mamme incinte, nessuno ha battuto ciglio, quindi anche grande gesto di civiltà anche in questo senso, insomma, da parte di tutti. Io credo che insomma la scuola dell'obbligo sia, come dire, un dovere per noi genitori mandare i nostri figli alla scuola dell'obbligo, ovviamente, ma anche un diritto, e quindi come tale non ci dovrebbe proprio essere questo problema in un paese civile. E come dargli torto al signor Scinto? Peccato però che poi abbiamo scoperto una verità un po' diversa. Ce l'ha raccontata Marco Perina, assessore alla cultura e alla scuola del 20° municipio di Roma. No, non è degno di un paese civile, ma è purtroppo il risultante anche un po', devo dire, della enfasi con cui i genitori vivono queste cose, perché mi dicono che su 60 posti disponibili hanno preso i bigliettini, questi fatidici della nottata, in 64, quindi non è che ci fosse questa grandissima, come dire, necessità di fare la nottata. A volte i genitori sono troppo allarmistici, ma comunque al di là di questo, gli altri anni il direttore aveva creato lui una sorta di meccanismo virtuoso che consentiva in qualche modo di evitarsi la nottata o comunque avere una graduatoria. Quest'anno, confortato comunque dal regolamento e dalla legge, quindi non è che ha fatto niente di che, si è limitato, perché aveva avuto in tutti gli anni successivi ricorsi perché mio figlio è entrato più tardi, perché si è scritto prima, eccetera, non avendo il criterio oggettivo su cui lavorare, ha detto: io apro i cancelli alle 8 di mattina, chi arriva ad iscriversi lo prendo. E poi se i genitori in qualsiasi modo si autodeterminano facendo un'estrazione all'otto, una riffa o la nottata o i numeretti, non è un problema che mi riguarda, la scuola apre alle 8, io prendo le iscrizioni dalle 8 in poi. Come arrivano ad essere primo, secondo, terzo o sessantesimo è un problema che si devono risolvere loro, quindi non è una casualità che succeda questo, succede specificatamente per le scuole dell'obbligo, in questo caso della via Zandonai, con tutto che l'istituto comprensivo ha altre tre succursali oltre quella della Zandonai, che sono purtroppo, ma questo per l'atteggiamento di chi vive a Vigna Clara, considerate le scuole di serie B, perché ci sono altre quattro scuole che hanno anche posti liberissimi. Quindi non è questione di numero di bambini che possono essere accolti con il tempo pieno, il tempo pieno c'è per tutti, ci sarebbe per tutti, ma i genitori preferiscono... Il tempo pieno è un servizio aggiuntivo, e, diciamo, la copertura in linea di massima c'è per tutti, adesso non so essere preciso sui numeri, però diciamo c'è per tutti, ci sarebbe per tutti, il problema è che tutti vogliono andare alla Zandonai e non vogliono andare magari a Ponte Milvio perché ci stanno i due ragazzini del campo Rom che disturbano, tra virgolette. È tutto, potete riascoltare questa trasmissione su radio24.it, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.